Mega Shango. Mega Sciallo. Ricordi, Patrick, la prima pedalata? Sì, sì, me la ricordo anche abbastanza bene, perché mi hanno messo in bici, ho fatto penso 25-30 km con una salita sopra Luino, che è il Monte Grino. Ma più che la salita mi ricordo il passaggio tra Caslano e Ponte Treto, dove ci sono i binari del tram che attraversano, che sono messi in obliquo, no? Che sono un po' la cosa peggiore per uno che va con la bicicletta da corsa, con mio padre a fianco che mi spiegava un attimo prima di arrivare lì, mi spiegava come prendere questi binari. Io avevo 10 anni, e dietro un automobilista che ha cominciato a suonare perché andavamo in coppia e quasi ci butta per terra, ci ha affiancato, ci ha stretto, e c'erano gli amici di mio padre che l'hanno inseguito. È uscito un casino alla Madonna in mezzo alla strada, è per questo che me la ricordo molto bene. E lì però hai deciso: questa sarà un po' la mia strada, ha detto. No, non ancora lì, perché mi ricordo che poi ho fatto questa salita, sono arrivato in cima che ero distrutto, e io ai tempi giocavo ancora a hockey su ghiaccio e volevo continuare a giocare a hockey su ghiaccio. Ho deciso di correre in bici quando, quasi per scherzo, un po' di mesi dopo ho partecipato a una gara senza nessun allenamento, sono arrivato sesto, settimo. E quella era l'ultima gara di quella stagione. Ho rifatto l'inverno giocando hockey su ghiaccio. A inizio stagione, in primavera dell'anno successivo, sono andato a fare un'altra gara, sempre senza allenarmi, e ho fatto secondo. E da lì ho detto: magari in bici riesco a fare meglio che giocare hockey su ghiaccio. E da lì ho cominciato. Fare meglio, anche forse ti sei accorto che era un modo diverso di vivere la competizione. E magari sei più un individualista. Sì, quello sicuramente, diciamo, alla fine è vero che nel ciclismo c'è una squadra e il gioco di squadra è molto importante, però, e questo l'ho sempre detto, quando si vince una corsa in bicicletta la sensazione che si prova è sicuramente maggiore rispetto a quella che si ha, o almeno nel mio caso, rispetto a quella che si ha a vincere una partita in uno sport di squadra. Quando si vince con la squadra è bellissimo, perché si è un gruppo e tutto quanto, però in uno sport individuale sei tu e in quel momento tu ti senti il più forte di tutti e sai che quel giorno sei stato il migliore. Un inizio al caffè per ascoltare i racconti del ciclista ticinese Patrick Calcagni, che proprio in questo momento vedevo sugli schermi della televisione della 1. Quale degna apertura di questa edizione, vicina anche certo all'evento ciclistico del momento. Patrick, che purtroppo, lo ricordiamo, a causa di una frattura alla clavicola ha dovuto rinunciare a partecipare a questi mondiali di ciclismo su strada, ma noi lo vogliamo comunque protagonista. Un saluto di benvenuto da parte di Sara Tognola allo stesso tavolo dove poco fa ci siamo intrattenuti con Patrick, lo sentiremo ancora dopo, credo, tornerà a trovarci. Ora si è aggiunta Monia Abdelaziz, che è animatrice socioculturale, benvenuta. Ciao. Dunque, per tutta l'estate, e non è ancora finita per quanto riguarda il tuo progetto, in giro per la Svizzera italiana ad occupare piazze, possiamo dire così, appunto, con questo progetto di, possiamo definirlo, animazione territoriale. Sì, è stato un progetto che ha avuto una fase di programmazione e che poi si è visto attore nelle piazze di Giubiasco, Montecarasso e Bellinzona durante tutta l'estate, ma sta continuando anche adesso, chiuderà il suo percorso ad inizio ottobre, e proprio in questo momento piazza aperta con il mio collega, l'altro animatore Matteo Beltrami, è in Piazza del Sole a Bellinzona. Io ho ricevuto da te una specie di flyer, Giovani in Movimento, con un furgone. Ecco, questo furgone è proprio quello che vi identifica un po', che si identifica col progetto. Sì, perché nel furgone c'è dentro tutto il materiale che serve per allestire una piazza accogliente e per creare sia dei momenti di incontro, di svago, di divertimento, ma anche dei piccoli atelier, piuttosto che quello che ognuno sente di fare in quel momento. Quindi, quali sono gli ingredienti, poi di questo parleremo in modo più approfondito, forse anche con degli esempi, per favorire l'aggregazione in una piazza? Beh, un pizzico di calore umano, qualche elemento di curiosità, magari anche per attirare lo sguardo, un po' di musica piuttosto che una bibita, uno sciroppo, e poi semplicemente l'esserci. Il lavoro dell'animatore spesso non significa fare molte cose, ma essere presente, essere una presenza che si vede, che si sa che ci si può rivolgere anche a lui, eppure essere al contempo nascosto, non farsi vedere, ma semplicemente favorire lo stare essere assieme. Essere spettatore di quello che si è creato, che sì, si sta creando, perché poi esserci, Monia, ma anche crederci in un progetto del genere, che non è semplice. Beh, in animazione bisogna crederci molto nei progetti che si decide di portare avanti, perché specialmente in Ticino non c'è ancora una grandissima cultura dell'animazione socioculturale, e quindi è un nuovo ambito ancora da esplorare, ancora da valorizzare forse. Tu, classe 1980, come mai hai deciso di diplomarti, o di laurearti, anzi scusa, in animazione socioculturale? Con quale tesi, tra l'altro, così? Beh, la tesi è proprio adatta, perché è stata fatta sul bisogno di un centro giovanile a Giubiasco, e il titolo è Aprirsi al desiderio. Aprirsi al desiderio, e quindi sei partita a... così analizzare il campo direttamente, o sei partita da te stessa magari? Ma certamente io sono cresciuta a Giubiasco, quindi nell'animazione c'è anche una certa spinta di cittadinanza, di voler fare qualcosa, e quindi sono partita dal posto dove sono cresciuta per analizzare un bisogno. E poi è vero anche che nell'animazione la teoria si mescola molto con la pratica, con le esperienze dirette che hai sul campo, in un continuo andirivieni fra teoria e pratica. E poi il bello, lo dicevi tu poco fa, che sei contemporaneamente spettatore e protagonista di un progetto, in questo caso. Sì, poi la cosa molto bella è lasciarsi sorprendere da quello che succede, perché quell'essere protagonisti significa semplicemente apportare degli aggiustamenti secondo come si sviluppano le dinamiche sul posto, quindi non c'è mai una giornata uguale a Piazza Aperta Giovani in Movimento. Ecco, Giovani in Movimento, qui si tende non solo giovani in movimento, ma verso anche altre generazioni, no? Perché la parola, diciamo, la parola chiave di questo progetto è l'aggregazione, la socialità, o il recupero di certa socialità perduta. E immagino non deve essere stato facile, soprattutto all'inizio, perché in fondo è una cultura che devi un po' riabilitare, quella dell'incontro, anche tra giovani, non solo tra giovani e altre generazioni. Ma ti porterò un esempio. Siamo stati nella zona del Palasio a Giubiasco, e la prima giornata non ci sono state molte presenze, nella seconda una qualcuna in più, i ragazzi sono venuti, si sono appropriati del posto. E la terza sera finalmente avevamo una coppia di pensionati che sono venuti a pitturare, addirittura hanno fatto quindi anche delle piccole creazioni. Poi c'erano dei trentenni, poi c'erano i ragazzi naturalmente, c'era di tutto. E questo è vero, ci si mette un attimo, perché a volte le cose le osserviamo prima da lontano, cerchiamo di capire cosa succede, poi magari ci avviciniamo. E sì, in questi progetti è anche importante continuare a crederci e dargli continuità. Gli elementi che possono favorire aggregazioni di questo genere, parlavi di pittura, credo, di altre cose, comunque voi li considerate ogni volta, cioè attività creative per favorire proprio gli incontri? Sì, sono quelle che noi chiamiamo attività non strutturate, attività libere, nel senso a Piazza Aperta ci sono una serie di scatoloni con magari la scritta argilla, una scritta pittura, i giochi di società, e queste scatole sono semplicemente lì. Sta poi a chi viene a chiederti: posso fare argilla? Posso? Il problema è chiedere, vero? Osare. Esatto, spesso è vero, una volta che uno rompe il ghiaccio poi gli altri seguono e diventa tutto più semplice. Un colloquio di incontri indubbiamente belli e curiosi. In questo momento possiamo dire agli ascoltatori: potete recarvi alla Piazza del Sole a Bellinzona. È un invito che facciamo, che rivolgiamo a tutti. Sì, perché in questo momento immagino ci staranno ascoltando alla radio, ma poi più tardi magari ogni persona che vorrà proporre la sua musica potrà farlo direttamente in piazza, perché abbiamo uno stereo dove è possibile attaccare il proprio MP3. Se pensiamo che ai ragazzi, come a noi, piace molto ascoltare la musica, e condividerla con gli altri, anche la radio è un elemento importante. Certo, luogo quindi di incontri belli, curiosi, ma da dove nasce poi questo progetto? È vero, nasce da un'esigenza anche tua personale, perché poi sulle perché la piazza e non altri posti? È vero che ci siamo un po' dimenticati che la piazza è in fondo è stato un luogo privilegiato e appropriato per ricreare questo tipo di socialità perduta, di relazioni nuove, di schemi sociali nuovi o rinnovati. La piazza è un luogo libero, è un luogo dove non dobbiamo consumare per forza qualcosa, è il posto che dovrebbe essere per eccellenza il luogo dell'incontro. E in una società dove sempre più, e questo nella mia ricerca l'hanno messo in evidenza soprattutto gli adulti, dove si sono persi i piccoli commerci di quartiere, la posta, oppure dove il centro commerciale diventa il luogo di incontro, ecco che la piazza pian piano diventa disabitata. E la piazza ha anche il fatto di essere uno spazio grande. In uno spazio grande anche persone diverse si trovano a loro agio, perché non si va al centro giovanile, che è caratterizzato per essere dei giovani, o nel parco della casa anziani per gli anziani. Questo è un po' uno schema che abbiamo, no? Sì, la società oggi penso si possa dire che è molto settorializzata per ogni fascia. Si ghettizza, no? Le generazioni che si ghettizzano, un po' quello che voi cercate di fare, cioè abbattere queste barriere. Sì, e prima però di arrivare all'intergenerazionalità, quello che facciamo è mettere in evidenza le risorse positive dei ragazzi. Quindi prima dell'intergenerazionalità mettiamo la multigenerazionalità, per riconoscere che i ragazzi hanno questo bisogno molto forte di potersi trovare anche semplicemente a chiacchierare, a stare bene insieme, a condividere pensieri. Senti, ma chi ha più paura di socializzare, i giovani o i meno giovani o i meno giovani? Non saprei risponderti. A volte ho notato che in alcuni rari meno giovani si creano delle barriere direttamente sull'andare verso i più giovani. Perché ci sono preconcetti, probabilmente. Sì, a volte è bizzarro vedere come per i ragazzi si faccia in frettissima generalizzare. Ce n'è uno su 700, se pensiamo a un comune con 700 ragazzi, ce n'è uno che fa qualcosa e i giovani sono così. Mentre se un adulto fa qualcosa non sono gli adulti che fanno così, sono mai stato quell'adulto. E quindi sì, con i ragazzi si fa in fretta a generalizzare, si fanno in fretta anche a mettere sui giovani i propri bisogni, perché a volte sento dire ah sì, c'è bisogno per i ragazzi, quando anche gli adulti hanno bisogno di questi spazi d'incontro. Spesso i bisogni sono simili, ma non si ha il coraggio, parlo per gli adulti, non si ha il coraggio di ammettere certi bisogni perché si considerano, non lo so, obsoleti. Può darsi, magari ce ne si è fatta una ragione, che ormai la società va così e lo si accetta. I giovani hanno ancora molti sogni e trovo giusto accoglierli. Ed è giusto che li abbiano anche gli adulti. Giovani in Movimento, questo bel progetto, ricordo in questo momento Piazza del Sole, c'è questo furgone, come mi descrivi questo furgone così per tutti, che può essere... È un furgone molto grande che all'interno ha un sistema... Parlo dell'esterno proprio, perché sta fuori. È bianco con una fascia blu sul fondo. Ci sarà appeso il cartello fatto dai ragazzi che dice Piazza Aperta Giovani in Movimento. Attorno gireranno, speriamo, molte persone, molti ragazzi, ma anche adulti, anziani, bambini. Senti, prossimi appuntamenti, perché è vero che un appuntamento tipicamente estivo, una tournée anzi tipicamente estiva, però prosegue per un certo periodo. Sì, adesso fino al 10 ottobre saremo ancora attivi. Il venerdì sera dalle 7 alle 10 e mezza saremo a Giubiasco, il mercoledì saremo nel Bellinzonese, il sabato saremo a Bellinzona e la domenica a Giubiasco, questo fino al 10 ottobre. La cosa più semplice è consultare il programma sul sito di Pro Juventute, www.projuventute.ch. Bene, Io ti ringrazio tantissimo, so che hai fretta, devi tornare in Piazza del Sole. Grazie mille Monia, alla prossima. Grazie mille alla prossima. A voi. E le parole finali sono ancora per voce, come già vi dicevo, di Patrick Calcagni, e da parte nostra anche un augurio, quello di non aver mai paura di vincere. Paura di vincere? No, mai. Diciamo che forse un po', soprattutto nelle categorie giovanili dove vincevo tanto, non ho mai avuto paura di vincere. Forse era un po' la mia arma vincente, era il fatto che quando mi sentivo al 100% di condizione riuscivo a essere più tranquillo mentalmente e affrontare la corsa in maniera molto più tranquilla e rilassata di non quando so di non essere al 100%. Ecco, quando uno non è al 100% lì ha paura di far la gara, ha paura di non arrivare a giocarsi la vittoria, ecco. Quando tu vedi i giovani che sognano, che si allenano, che soffrono anche, cosa consigli? O come li vedi? Diversamente da come eri tu? Oppure noti che c'è anche un'evoluzione nelle fasi di allenamento? Diciamo che la grossa differenza che c'è da adesso a prima, purtroppo nel ciclismo, è il problema del traffico, no? Diciamo 15 anni fa, quando avevo io 15-16 anni, c'era molto meno casino sulle strade, quindi era più facile allenarsi ed eravamo molti più ragazzini in giro in bicicletta. Ora vedo i giovani e soprattutto le famiglie hanno paura a mettere in bicicletta un ragazzo, no? Il metodo di allenarsi sicuramente è progredito, diciamo c'è più qualità nell'allenamento e probabilmente si fanno meno ore di allenamento ma con più qualità. Però alla fine, alla base di tutto, deve esserci la passione e quindi cosa dire a un giovane che va in bici? Se è appassionato deve farlo ed è giusto che lo faccia. L'importante non esagerare, cioè bisogna fare tutto quello che si ha voglia di fare e non fare quello che magari, se una mattina un ragazzo si sveglia e non ha voglia di andare in bicicletta, è giusto che non ci vada. Senti, quanto ti ha fatto crescere la bicicletta o dove senti di essere cresciuto di più attraverso la bicicletta, attraverso queste esperienze che hai avuto di competizione anche con te stesso? Io sono riuscito a fare per 10 anni di quello che è la mia passione, fare il mio lavoro. Io ormai sono 10 anni che vivo di ciclismo. Quello che mi ha dato la bici è sicuramente una cultura generale che poche altre professioni ti possono dare. Diciamo, il fatto di poter viaggiare, di conoscere altre mentalità, di avere a che fare... Io adesso per esempio sono in squadra con una squadra sudafricana, con ragazzi del Sudafrica, colombiani, inglesi. E si conosce un po' la mentalità di tutto il mondo alla fine. E questo sicuramente è un bagaglio grandissimo che uno si porterà sempre appresso. Mega Sciallo.